get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Benvenute alla nostra 39esima puntata. È da un po' di tempo che ho in mente di fare un articolo legato ad un aspetto a me molto vicino, quello dell'educazione e dei valori, perché, come ho già detto altre volte, essendo un insegnante, ho sotto mano il risultato di quella che considero una vera e propria polveriera, che in momenti e modi disparati ogni tanto esplode in episodi eclatanti. Non sono tanto lontane nel tempo notizie relative ad atti di intolleranza, violenza gratuita e vandalismo fatti da giovani. Si sta sempre più strutturando una società dove il sistema politico, economico e culturale fa sì che nelle scelte venga data priorità a quelle collettive, magari in nome di un risparmio di spese necessario o, peggio, in nome dell'entrata dell'Italia in Europa, per esempio, a discapito di quelle individuali. Tutto passa attraverso la necessità per il bene di un paese sempre più lontano e disattento ai bisogni individuali. La singola persona vede restringersi sempre di più il proprio spazio decisionale. In un contesto come questo, la capacità di rappresentazione della realtà da parte della singola persona diventa parziale ed insufficiente rispetto alla conoscenza globale. Una conoscenza globale, invece, sarebbe indispensabile perché permetterebbe di operare, con cognizione di causa, le proprie scelte. L'esigenza di creare un'educazione che tende a salvaguardare, mantenere ed arricchire la singola persona, e quindi un'educazione all'altezza dei tempi, è il bisogno di chi, come me, opera nella scuola. L'importanza di un'azione educativa valida, intesa come formazione dell'individuo capace di conoscere ed operare autonomamente le scelte, è concretamente indispensabile per, primo, la sopravvivenza della specie con tutte le sue sfaccettature, secondo, una continua costruzione della cultura che veda nella diversità fonti di ricchezze, terzo, il consolidamento dei valori umani che sono alla base della convivenza e, per finire, quarto, l'abitudine alla scelta. Purtroppo la scuola oggi è sempre più incanalata in una strada che restringe e limita i propri compiti a funzioni specifiche. Si fossilizza, cioè, in una dimensione prettamente didattica nelle scuole di base, ma diventa addirittura quasi un avviamento al lavoro quando si parla delle superiori. Stiamo correndo un serio rischio se pensiamo che l'industria sta pilotando la preparazione all'interno di alcune scuole in nome di un lavoro che probabilmente continuerà a non esserci. La crescita individuale degli studenti viene contrabbandata in cambio ed in nome di una esigenza di formazione professionale per questa o quell'altra azienda. Chiaramente fermo restando che i figli e le figlie delle famiglie benestanti potranno ricorrere sempre a scuola che prepareranno al comando. Dubito infatti che un ipotetico figlio di un parlamentare possa mai decidere di frequentare una scuola che prepara, ad esempio, ragazzi pronti a lavorare in fabbrica. Ma in fondo, di cosa ci lamentiamo? Per il bene e la ripresa dell'industria è indispensabile che al suo interno entrino persone qualificate. Ricordate? Prima parlavo di scelte collettive. Poco importa se il ragazzo o la ragazza avevano magari aspirazioni diverse. Il fine giustifica i mezzi. Vogliamo o no far crescere questa nostra Italia? Si dovrà pur fare qualche sacrificio. Personalmente sono d'accordo. È sul chi deve fare questi sacrifici che ho delle grandi riserve. C'è un vecchio film di Totò che diceva «E io pago». Certo, Totò faceva sorridere, ma oggi non trovo ci sia molto da ridere. A proposito, lo sapete che fra i referendum che Emma Bonino sta preparando ce n'è uno che riguarda la proposta di abrogazione dei contratti unici nazionale e che D'Alema, il compagno, l'ha trovato molto interessante? Ma ci pensate? I lavoratori non avranno più un contratto unico a livello nazionale. Per esempio, nella mia scuola a Roma, potrei avere un trattamento diverso rispetto ad una collega che insegna, che so, a Genova o Milano. Mi rendo conto che qualcuna si starà chiedendo, visto che io sono una lesbica e che questa è una trasmissione che generalmente parla di lesbismo, si starà chiedendo il perché di questo mio intervento che parla di scuola, industria e ingiustizia sociale. Bene, nel cappello introduttivo io parlavo di come questa società si sta strutturando e di come, di fatto, impedisca alle singole persone di operare scelte consapevoli. L'esempio della scuola è significativo rispetto a questa sempre più pressante esigenza di omologazione e strutturazione fissa dei compiti e dei doveri. Sostanzialmente ci si sta avviando in un contesto dove tutto diventa inevitabile, dove non si può fare altro che così, dove il tuo bisogno personale non è sufficientemente rilevante, dove tu, come singola entità, in effetti, non conti. Prima dicevo che la capacità di rappresentazione della realtà sta diventando sempre più parziale. Si sta cercando di fare in modo che i giovani abbiano una visione ristretta di quella che è la globalità. Valori come il rispetto vengono a mancare se, per esempio, a 14-15 anni ti si prospetta come inevitabile la scelta del tuo futuro, senza possibilità di deroghe. Quello che vuoi non conta. È logico che allora si cerchi il riscatto altrove. Se ho la strada segnata, un extracomunitario può diventare colui che limita ancora di più le mie già poche possibilità. E allora perché non annegarlo in un fiume? Se non ho niente in cui sperare, diventa determinante la vincita dello scudetto da parte della mia squadra del cuore. Se poi non vince, posso sempre dare fuoco al treno. Se mi si prospetta come giusta una guerra, perché dovrei sforzarmi di cercare strade diplomatiche o chiedermi il perché e quali interessi ci siano dietro? La violenza si combatte con la violenza. L'importante è o non è risolvere il problema? Se mi si prospetta come unica scelta quella della eterosessualità, per esempio, come posso accettare chi si dissocia da questa che viene propagandata come l'unica scelta possibile? Posso sempre rifarmi su chi non si omologa. Uno studio effettuato da Arcigay e Arcilesbica dal titolo Chi è quel ragazzo, chi è quella ragazza? Ha evidenziato quanta violenza ci sia nelle scuole nei confronti degli omosessuali. Avere oggi una coscienza sociale vera ed essere in grado di scegliere è sempre più difficile. Mi conforta moltissimo venire in questa radio, dove vedo molti giovani che, nonostante tutto, hanno ancora la forza e l'energia di opporsi. Mi consola vedere alle feste organizzate dal Centro Femminista Separatista molte giovani lesbiche. Certo, mi rattristo un po' quando penso che la maggioranza di queste oggi frequenta prevalentemente le discoteche, ma ritengo che, viste le premesse dette prima, proprio quelle giovani lesbiche dimostrino coraggio da vendere. Considero anche una mia responsabilità fare in modo che, piano piano, non frequentino più soltanto le discoteche. Ma torniamo per un attimo al discorso legato all'educazione, soffermandoci a riflettere su come questo tipo di società, oltre a creare persone sostanzialmente incapaci di essere in grado di operare scelte autonome, non permetta di fatto alle bambine di crescere senza avere il fiato sul collo del potere maschile. Rimando ad un'altra puntata l'approfondimento di ciò che condiziona le bambine e quindi le donne, ma nel frattempo consiglio a tutte la rilettura del libro Dalla parte delle bambine di Elena Gianni Belotti, il quale rimane a tutt'oggi una delle più importanti testimonianze al riguardo. Per il momento vi lascio con un po' di musica in compagnia delle Indigo Girl con il brano Tried to be True. It's me from you now. I said separates me from you. Gli appuntamenti. Il 30 giugno alle 18:30 presso il Buon Pastore di Roma, in via San Francesco di Sales 1B, si terrà un incontro con Alessandra De Perini, autrice del libro Il desiderio senza nome. L'incontro è organizzato nell'ambito della mostra Mercato del libro delle donne, che terminerà il 3 luglio. Ed è a cura dell'associazione Zora Neale Hurston. Gli archivi lesbici italiani cureranno nella mostra il settore dedicato al lesbismo. Atomo, associazione tennisti omosessuali, organizza a Milano dal 2 al 5 settembre il primo torneo open per tennisti e tenniste gay e lesbiche. Termine ultimo per l'iscrizione è il 15 luglio. Per informazioni l'indirizzo di email è atomo@italia.geocities.com. Passando alle notizie, tra le news della rivista Out del Circolo Mario Meli di Roma ha attirato la nostra attenzione il titolo Omocausto. Il governo islamico fondamentalista dei talibani, di cui abbiamo parlato in una delle prime trasmissioni, continua a mietere vittime fra gli omosessuali. Altri due afghani sono stati condannati a morte nella città di Kandahar, nel sud del paese. L'interpretazione talibana della Sharia, la legge islamica, fa sì che i reati vengano puniti con la pena capitale. Vari sono i modi con cui questa viene inflitta, gettando il colpevole da un precipizio o, come in questo recente caso, abbattendo su di esso un muro con l'aiuto di un carro armato. In caso di sopravvivenza, la legge rimette in libertà la persona accusata. Dal 1900 ad oggi si sono avute ben 8 esecuzioni, 3 delle quali fortunatamente conclusesi con la sopravvivenza dei gay o presunti tali. Nel periodo dell'anno in cui si compila la dichiarazione dei redditi, spuntano in televisione gli spot pubblicitari con cui la Chiesa Cattolica invita i contribuenti a destinare le quote per l'8 per 1000. Per effettuare una scelta pienamente consapevole, può essere utile tener presente alcune informazioni che gli spot non dicono. Ad esempio, è opinione diffusa che la Chiesa Cattolica investa il ricavato dell'8 per 1000 in opere di beneficenza. Ciò è vero solo in minima parte. I 5.000 miliardi di lire che la Chiesa Cattolica ha raccolto tra il 1993 e il 1997 sono stati spesi nel seguente modo. Il 76%, pari a circa 3.800 miliardi, per attività di catechesi e di culto per il sostentamento dei sacerdoti. Il 4% per attività culturali e per beni artistici. L'11% per attività di assistenza e di sostegno culturale a favore del terzo mondo. Il 9% alle diocesi italiane per attività di carità. Come si vede, i soldi investiti in attività di tipo umanitario sono soltanto il 20% del totale. E sempre da Out, apprendiamo che alcuni cristiani ortodossi hanno minacciato il personale del teatro Nottara di Bucarest e strappato le locandine dello spettacolo in programmazione in segno di protesta nei confronti della commedia a tematica gay Angels in America. La polizia è dovuta intervenire per sedare i disordini ed ha dovuto presidiare lo stabile per evitare nuovi incidenti. Ricordiamo che lo scorso giugno la Camera dei Deputati rumena ha bloccato qualsiasi tentativo di legalizzazione dell'omosessualità, suscitando le proteste del Consiglio d'Europa e mettendo in discussione l'entrata del paese nell'Unione Europea. Secondo la legislazione rumena, sedurre o incitare una persona ad avere rapporti con persone dello stesso sesso è un reato punibile con una pena di reclusione variabile tra 1 e 5 anni. La stessa pena è prevista per chi promuove attività associative, propagandistiche o di proselitismo legate appunto alla questione omosessuale. Ai gay e lesbiche rumeni non rimane che tentare la via dell'esilio, come ha fatto Marana Cetiner, la donna di cui si è tanto occupata Amnesty International, che dopo aver scontato in carcere la propria pena per le avance fatte alla propria coinquilina, ha chiesto ed ottenuto asilo in Germania. Come spesso abbiamo fatto in passato, il nostro spazio di musica lesbica indipendente è dedicato alle Kick la Luna, le quattro ragazze tedesche che più di una volta sono venute in Italia a promuovere la loro musica e che ci accompagnano nel sottofondo sul parlato con Simpalabras. Per saperne di più potete visitare il loro sito www.roxy.de/kicklaluna. Il brano che ascoltiamo è tratto dal CD del 1998 Lucina Lacht e si intitola Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen und auf neue Wege wagen? Und wenn der große Zweifel mich über Siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista autogestito di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che potete e dovreste contattarci durante la trasmissione qui in radio allo 06 49 17 50. Oppure tutti i lunedì dalle 20:30 presso il Centro Femminista Separatista di Roma in via San Francesco di Sales 1B allo 06 68 64 201, che è anche fax e segreteria telefonica. Gli incontri del coordinamento lesbiche romane sono aperti a tutte le donne interessate. Se avete un computer potete mettervi in comunicazione con noi tramite il nostro indirizzo di mail clr50@hotmail.com. A questo punto volevamo leggervi un intervento per il quale abbiamo avuto un decisivo e significativo contributo da parte di Angela, una nostra amica, esperta nonché tifosa di calcio. Il titolo che ha scelto per questo brano è «Non vorrei essere la fidanzata di Carolina». Ascoltate. «Nutro per il calcio una sincera passione e sono stata lieta quando ho saputo dell'incarico affidato a Carolina Morace di allenare la Viterbese che milita nel campionato C1. Il calcio è ancora una roccaforte maschile e l'evento di una donna allenatrice di una squadra di ai tanti maschietti ha provocato un certo fragore, tanto che la notizia ha raggiunto persino il Nuovo Mondo. La CNN, infatti, si è scomodata per riferire l'accaduto agli americani». La Morace, a sua volta, è stata presa d'assalto dai cronisti, dai telegiornalisti e ospitata persino al Maurizio Costanzo Show. Il dibattito ha avuto subito toni accesi ma interessanti. Ascoltate il livello della conversazione. Come chiameranno Carolina i suoi giocatori? Mister? Signorina? Dottoressa? E come farà l'allenatrice ad entrare negli spogliatoi dove potrebbero fare bella mostra di sé una quantità di genitali maschili? E ancora, ubbidiranno i calciatori agli ordini di una donna? E che dire poi del linguaggio scurrile in uso nell'ambiente del calcio, che non risparmia tecnici, dirigenti, giocatori e pubblico? Si asterranno gli uomini in presenza di una donna dall'uso di volgarità linguistiche? Ma non è ancora finita. In tale clima, infatti, si inserisce un'intervista al Messaggero a cura di un certo Giancarlo Dotto. Visto il nome, è sicuramente uno che di calcio se ne intende. Giancarlo Dotto, dicevamo, pubblicata il 23 giugno 99 dal titolo «Cari uomini, col mio calcio vi stupirò». Il giornalista ad un certo punto chiede a Carolina: «Le domande morbosette, lo spogliatoio, l'omosessualità nel calcio femminile, eccetera, eccetera, la fanno arrabbiare. Sarà pure immondizia, ma è l'immondizia che sta nelle teste». E la Morace risponde: «Ho avuto da giocatrice allenatori uomini senza problemi. Ci tenete a sapere come mi comporterò a Viterbo? A fine partita non andrò nello spogliatoio. Del resto non l'ho fatto mai, nemmeno con le donne. Prima della partita farò sapere ai ragazzi. Tra 10 minuti arrivo, mettetevi i calzoncini. L'omosessualità? Preferisco che pensino a me come lesbica piuttosto che come puttana. No, non sono sposata. Ho voluto privilegiare il lavoro e l'indipendenza. Per il resto sono fatti miei con chi vado a letto. Non devo rendere conto a nessuno. Ho la mia personalità. Sono di sinistra e questo, in certi ambienti, mi ha creato dei problemi. Il femminismo? Un fenomeno datato. Il rispetto? Io me lo guadagno tutti i giorni con il mio lavoro. Ma vi interessa almeno sapere cosa penso di calcio?» A questo punto, di colpo, la simpatia viene meno, perché gli argomenti usati dalla Morace nella risposta non sono meno qualunquisti, sessisti e omofobici di quelli usati da certa stampa. Non so cosa pensi Carolina di se stessa. Agli altri dice: meglio che pensiate che io sia lesbica piuttosto che una puttana. È una graduatoria di merito piuttosto svilente, perché nella scala delle infamità sociali le lesbiche risultano così essere penultime a scapito delle pur gloriose ma schifate puttane. È un duro colpo al pensiero maschile, che di certo preferisce le puttane alle lesbiche, per ovvie ragioni su cui non mi soffermo a dissertare, e quindi se proprio vi troverete nella condizione di dover insultare la Morace, sapete già da ora con quale appellativo o epiteto gradisce essere diffamata, e ciò forse vi faciliterà persino il compito. I fatti del Talamo restano privati nel pieno rispetto, dunque, della legge sulla privacy. Ma se mai la Morace dovesse decidere di avere una fidanzata, temo che la poverina al di fuori del letto non avrebbe vita facile, anzi, non avrebbe vita alcuna. Che dire poi delle affermazioni sul femminismo? Carolina rivendica di essere una donna che si è fatta da sola, condizione, credo, del tutto simile ad alcuni milioni di donne. Nulla comunque deve al femminismo, che ormai è obsoleto, dato che le donne e gli uomini oggi hanno pressoché identiche opportunità sociali, come del resto lei stessa ha potuto verificare in questi giorni. Allora, auguri Carolina, anche se più di tanto non ne hai bisogno. Le donne, gli uomini, le lesbiche e soprattutto le puttane hanno ormai tutte lo stesso prestigio e lo stesso potere sociale. Ed ora è con estremo piacere che vi facciamo ascoltare finalmente per intero la magica sigla delle nostre trasmissioni, Something's Got a Hold on Me, di Etta James. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah, I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, that's volte mi sorprendo io stessa nel constatare quante cose vengono negate a noi lesbiche e quanto noi stesse ci comportiamo spesso come se fossimo inconsapevolmente rassegnate alla società attuale. Pensate infatti alla meraviglia e alla felicità con la quale accogliamo un film che, seppur in maniera velata, ha all'interno della sua trama una storia lesbica. Quando ciò accade, si scatena una specie di tantam fatto di amiche delle amiche delle amiche che porta ad un accorrere di donne nella sala cinematografica che accoglie un film di questo tipo. Tutte si guardano intorno e cercano di capire dall'abbigliamento, dall'atteggiamento e perfino dai tratti somatici se le vicine di posto sono o non sono lesbiche. E quindi si sente una specie di mormorio monocorde all'insegna del «lo è o non lo è?» «Ma sì, scommetto 10-1 che lo è!» «Ma che dici, non lo vedi che...» «Eh sì, e non importa se poi l'accenno lesbico nel film è di quelli più negativi possibili, se la storia tra le due donne finisce nel suicidio, nel delitto o nell'incidente mortale, e comunque finisce sempre. L'importante è che il film ci dia. Ma sì, in fondo che cosa ci dà un film che contiene una storia lesbica?» Ebbene, io credo che ci dia una cosa fondamentale, le immagini. Sì, le immagini, anche se è banale dirlo per un film. Quello che ci dà vedere sul grande o piccolo schermo una storia lesbica è proprio quanto ci viene quotidianamente negato. A parte mode consumistiche e temporanee, pensate a come la pubblicità, la stampa e tutti i media ci restituiscono solo immagini legate al modello eterosessuale. Questo non fa altro che minare il nostro immaginario e la nostra serenità di donne lesbiche, nonché la nostra stessa visibilità. In un mondo privo di immagini che descrivono la vita delle lesbiche, il nostro desiderio di coming out non può essere coltivato se non al duro prezzo del convincimento politico, perché, volenti o nolenti, ognuna di noi è sottoposta al giudizio della gente, sempre più forgiato dalle esteriorità dei media e quindi sempre più implacabile rispetto alle diversità non contemplate in strumenti come i film, che non fanno altro che descrivere, appunto, una quotidianità priva di immagini lesbiche. Ma poiché quello che guida gli esseri umani, ed anche qui, volenti o nolenti, le lesbiche sono esseri umani, quello che ci guida, dicevo, è sempre l'istinto di sopravvivenza. Allora, manipoli di temerarie e temerarie in tutto il mondo hanno pensato di riappropriarsi delle immagini che lì e lei riguardavano, nel tentativo di contribuire a creare in ogni singolo e singola, gay e lesbica, un immaginario che viene negato alla nascita, durante il periodo di formazione e quindi nella vita. Ed allora al mondo esistono ben 127 festival di cinema gay e lesbico, ben 60 negli Stati Uniti, 6 in Canada, 45 in Europa e poi in Australia, in Nuova Zelanda, in Brasile, in Messico, in Giappone, in Corea, in Sudafrica e ad Hong Kong. Al di fuori dell'Europa, i più importanti, ovvero quelli che poi guidano il circuito degli altri festival, sono sicuramente il Framline di San Francisco, che dura ben 10 giorni e si tiene da ben 23 anni, l'Inside Out, di Toronto e l'Out of Screen di Vancouver in Canada ed il Mardi Gras di Sydney in Australia. In Europa ormai esiste un festival quasi per ogni nazione: Olanda, Spagna, Svizzera, Belgio, Ungheria, Danimarca, Irlanda, Finlandia, Islanda, Portogallo, Norvegia, Francia, Slovenia, Svezia ed Austria. E se il festival più importante non può che tenersi in Inghilterra, ovvero il London Lesbian and Gay Film Festival, che raggiunge quasi 21.000 presenze ogni anno, affiancato da un festival dedicato solo agli omosessuali neri e da un altro dedicato al transgender, la palma di nazione con più festival in Europa è di gran lunga ottenuta dalla Germania. Ogni anno vi hanno luogo, infatti, ben 15 festival, di cui 3 solo a Berlino. E l'Italia? Beh, l'Italia si difende più che bene, o male, a seconda dei punti di vista, visto che risulta vi si svolgano ben 5 festival, 3 a Bologna, immaginaria, un festival sull'AIDS che in realtà si è tenuto solo nel 1997 a cura dell'Arcigay, ed una versione bolognese e ristretta del festival che si tiene a Milano. Il Festival di Milano, appunto, ed il Grande Festival di Torino. Ovviamente c'è un'enorme differenza tra festival e rassegne cinematografiche, in quanto i festival presuppongono un impegno di risorse umane ed economiche, nonché una continuità ed un prestigio dovuto anche ai premi assegnati ed una caratterizzazione di evento nazionale invece che locale, ben diverso da quello profuso nelle rassegne. Comunque, anche in Italia ognuno dice la sua. E seppure ciò è positivo, in quanto più immagini lesbiche circolano, più gli obiettivi di modifiche culturali vengono raggiunti, bisogna stare bene attente a non inflazionare un mercato ristretto e a non impoverirlo del significato che deve avere. E quindi ben vengano nuovi festival e rassegne, purché si abbia ben chiaro che l'immaginario da riscoprire deve offrire modelli positivi e vincenti. Perché far emergere un immaginario perdente e qualunquista determina un perfetto allineamento ai circuiti ufficiali e quindi eterosessuali, snaturando le motivazioni stesse che portano alla nascita di un festival a tematiche omosessuali. Immaginario non vi parlerò, perché contribuendo ad organizzarlo potrei non essere obiettiva, ma c'è da dire che rappresenta uno dei 7 esempi al mondo di festival interamente dedicati alle lesbiche, ed oserei dire separatisti, come Immaginaria sicuramente è. Gli altri 6 sono Quand les lesbiennes font du cinéma, organizzato dalle amiche dell'associazione Cinefable a Parigi, i festival di Berlino e Friburgo in Germania, il Festival di London in Canada ed i Festival di Berkeley e Tucson in America. Per le rare nel circuito di festival misti, sempre più orientati ad una logica queer, che nega l'identità di genere e promuove le scelte sessuali finalizzate solo ad un desiderio indiscriminato e non pensante. Ma chi organizza tutti questi festival nel mondo? Per la maggior parte sono associazioni politiche che scelgono lo strumento del festival coerentemente alle altre iniziative politiche e culturali che promuovono. Ma anche gay e lesbiche o istituti culturali che perseguono la mera logica del lucro e del settore che tira. È il caso ad esempio del Festival di Londra, finanziato dal British Film Institute, che vi fa lavorare anche i suoi impiegati eterosessuali e fa curare a pagamento la programmazione ad un gay ed una lesbica freelance. Quello dei festival, quindi, nato da una matrice squisitamente politica e culturale, è un mondo che si sta evolvendo nella logica del lucro e quindi, per vederne i lati positivi, crea un mercato di cui beneficiano economicamente anche, ma non solo, gay e lesbiche. E di film? Anche qui si parla al momento in gran parte di cinema indipendente e quindi autofinanziato da lesbiche gay che considerano il cinema come un potente mezzo di espressione. Poche le eccezioni che riescono ad entrare nel circuito ufficiale, garantendo a chi ha speso di suo un adeguato ritorno economico. Per il resto la logica è semplice: se il film è veramente rivoluzionario, ovvero propone modelli omosessuali positivi, allora è autofinanziato, perché nessuna grossa produzione investirebbe in un progetto di questo tipo e quindi ha ben poche chance di entrare nel circuito ufficiale che l'ha rifiutato in partenza. Ed allora l'obiettivo dei festival deve essere davvero questo: sfondare questo muro di gomma e permettere che circolino sempre di più e per un pubblico non di settore proprio quei film che la cultura dominante rifiuta, sentendosi minacciata da modelli di tipo diverso. Buona fortuna quindi ad organizzatrici ed organizzatori, registi e registi. Aiutateci a trovare una nuova dimensione che rimanga sì rivoluzionaria,